Pagine per il futuro. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Pagine per il futuro, il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che propone in riduzione radiofonica un classico della letteratura, drammatizzato da attori del piccolo e commentato da una personalità del mondo dell'economia, della cultura o della politica. Il libro di oggi è Le tigri di Monpracem, di Emilio Salgari. A commentarlo per noi c'è Marco Tronchetti Provera, presidente Pirelli. L'intervista è di Sebastiano Barisoni. Sandokan è il discendente di una famiglia reale del Borneo, sterminata dagli inglesi e dai loro alleati locali. Spinto dalla vendetta, si trasforma in pirata, facendo base nella sua isola regno, l'isola di Monpracem, di cui diviene la tigre. Guerriero instancabile insieme gentiluomo, Sandokan percorre i mari malesi, depredando ogni imbarcazione occidentale che gli capiti a tiro, insieme al suo fedele equipaggio. I due prao scorrevano sopra al povero legno mercantile con la rapidità delle aquile, manovrando in maniera di poterlo abbordare sui due lati. I cannoni ripigliarono la infernale musica, fracassando gli attrezzi e alternando violente scariche di mitraglia che laceravano vele, recidevano corde. Il legno mercantile rispondeva vigorosamente col suo unico pezzo, cercando, se non di vincere, almeno di vendere caramente la vita. Tira! Tira! Che sei un coraggioso! Gridava Sandokan, entusiasmato. Tu sei degno di combattere contro di me! I due praos, avvolti fra fitte nubi di fumo, dalle quali scattavano lampi, uscivano detonazioni, volteggiavano attorno al legno mercantile che virava a furia di remi. Barra sotto vento! Gridò d'un tratto Sandokan, che aveva impugnata la scimitarra. Il suo praos abbordò il mercantile e, benché i rampini d'arrembaggio non fossero ancora stati lanciati, si raccolse su se stesso col cris fra i denti, come una tigre che sta per avventarsi, quando una mano robusta lo trasse indietro. Ragno di mare gli si rizzò accanto, coprendolo col suo petto, e bestemmiando tentò di saltare sul praos mercantile, dove un marinaio prendeva di mira la tigre della Malesia. Non ebbe il tempo, ma si gettò dinanzi a Sandokan e ricevette in sua vece la fucilata in pieno volto. Il povero ragno cadde in mare con la testa fracassata. Sandokan gettò un muggito da toro ferito e, aggrappandosi alla bocca di un cannone, si issò sulla coperta del legno mercantile. L'intero equipaggio, annerito dal fumo e insanguinato, si avventò contro di lui cercando di respingerlo. A me, miei prodi! Urlò il pirata, spaccando la testa al primo venuto. 10-12 pirati risposero all'appello, si arrampicarono come scimmie lungo i bordi e saltarono sul ponte circondando l'equipaggio. Nel medesimo tempo l'altro praos abbordava il legno a poppa. I suoi uomini irruppero con le scurie alzate, vociferando spaventosamente. Che nessuno li tocchi! Tuonò la voce della tigre. Sono degli eroi! Ma chi sei? Chiesero i marinai a una voce. La tigre della Malesia. C'è tanto da dire, già si capisce in quello che è uno dei romanzi di Salgari, in cui emerge anche la connotazione dell'amore. Poi vi arriveremo, ma la prima domanda è molto semplice. Perché le tigri della Malesia? Beh, contengono, penso, tutto quanto può affascinare un ragazzino. C'è l'avventura, ci sono i sentimenti forti, c'è l'amicizia, il coraggio, la vendetta, l'amore. E anche molta lealtà, molto rispetto per il coraggio altrui e molto disprezzo per la vigliaccheria anche dei propri compagni. È chiaro che ragioniamo delle letture dell'infanzia, ma cerchiamo anche di renderle e di calarle nell'attualità. Io, quando ho visto che lei aveva scelto Le tigri della Malesia, inizialmente si chiamava Le tigri di Monpracem, se non ricordo male, poi cambiato nella versione, a me è venuto in mente, per deformazione professionale, che di tigri parliamo adesso, di tigri dell'Asia parliamo adesso, ma sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto di chi sta diventando il vero motore propulsivo dell'economia mondiale. E allora io vorrei sapere se a lei personalmente fanno più paura le tigri di Monpracem o le tigri asiatiche di adesso. Ma io devo dire che ho simpatia per le tigri di Monpracem, perché quelle, e non ho poca simpatia per le tigri asiatiche. Sono un mondo in piena ebollizione, sono un mondo giovane, sono un mondo pieno di energia, sono un mondo che, avvicinandolo, si vede quanto è motivato a cercare spazio nel mondo. Ci sono certamente molte incongruenze, per carità, ci sono molti punti deboli, ma c'è quella spinta vitale che forse abbiamo un po' perso. Chiaramente molti di voi conoscono la biografia di Salgari, che è una biografia complicatissima, poi lui si è ucciso addirittura con un harakiri, in qualche modo, con una spada da samurai, una vita anche molto triste, mai aveva visitato, come sapete, questi luoghi, sono frutto solo della sua immaginazione e documentazione. Salgari non passa mai come un anticolonialista, però è indubbio che anche nella trasposizione poi televisiva l'inglese, insomma, è il colonialista cattivo, e i pirati della Malesia sono sostanzialmente sono ammantati da un che di eroico, di romantico, stanno con i più deboli in qualche modo. Allora io vorrei capire se, parlando dell'attualità, non si rischia anche noi ogni tanto, quando ci rivolgiamo all'Asia, di avere, se mi passa il termine, un atteggiamento neocolonialista. Cioè, noi sappiamo che spesso siamo andati lì a dire: voi volete diventare come noi, bene, vi comprate i nostri prodotti, usate il nostro gusto, fate le nostre scelte. Molte imprese in questo senso sono fallite, hanno preso delle musate clamorose, perché è difficile imporre a chi sta diventando ricco i gusti di chi obiettivamente si sta impoverendo. Ma se devo dire, andando da italiano in questa parte del mondo, io considero che noi abbiamo un grosso vantaggio. Siamo percepiti positivamente, loro sono alla ricerca di innovazione, di novità, di fantasia, di gusto, e l'Italia non ha delle barriere che possono avere altri paesi che sono molto più dominanti di noi nella storia anche del loro mondo. Quindi credo che noi siamo dei privilegiati, che se utilizziamo bene questo privilegio ci troviamo davvero a casa, nel senso che è più semplice per noi che per altri convivere con questa cultura ed essere apprezzati per le nostre qualità. Io sono sempre rimasto sorpreso della loro dolce accoglienza. Poi è chiaro che sono tigri, nel senso che se c'è il tradimento la chiusura è totale. La voglia di lasciare l'Italia non è mai venuta? No, io devo dire che considero l'Italia la parte del mondo più bella, ma non la considero io, la considerano tutti quelli che sono venuti in Italia. E i problemi li conosciamo, non li cambieremo oggi, non li cambieremo a breve, però abbiamo questo grande vantaggio e paghiamo uno scotto. Quindi io considero che l'Italia ci ha dato talmente tanto che per ogni italiano è un dovere cercare di difenderla. Io lo considero un privilegio essere italiano. La tigre si avvicinò al capitano del Praus. Tu sei un bravo uomo e i tuoi uomini sono degni del suo comandante. Io ti lascio la vita. Il capitano del Praus lo guardò come trasognato. Sandokan poggiò le mani sulle spalle di lui e, guardandolo fisso, dove vai? Gli chiese. All'Abuan, rispose macchinalmente il capitano. Tu conosci quell'isola? Sì. Parlami della perla di Labuan. Chi è? Una donna. Di quale razza? Inglese. Le labbra di Sandokan si contrassero mostrando i denti. Dove ha la sua casa? Nelle foreste della costa occidentale, grazie, mio prode. La tigre stese la mano verso est. La tenne per qualche tratto così orizzontalmente. Poi con voce metallica, stridente, collerica: Tigrotti! All'Abuan! All'Abuan! Intanto vorrei sapere se, come la pelle di Labuan, che poi ci ricordiamo di Carol André, abbiamo un'età leggermente diversa, a me ha turbato i sonni e anche gli studi forse, con conseguenze che poi si sono viste. Ma insomma, lei la perla di Labuan la metterebbe nel calendario Pirelli? Ma quella di Sandokan sì, a quella di Sandokan darei la copertina. Vabbè, invece venendo alla parte più seria, questo è un amore impossibile, cioè una donna britannica, ricca, protetta, bianca, diafana, mentre Sandokan è burneo, è pirata, è maschio. Lei ha anche un'esperienza di amori di cui due culture si vanno a incontrare. Allora, dov'è il discrimine tra, diciamo, uno scontro di culture che quindi tende a distanziare poi i rapporti e invece quello che è il confronto e l'arricchimento tra due culture? Perché sembra facile dirlo, poi in realtà nella gestione quotidiana lo stesso Sandokan i suoi problemi li ha. Io credo che le culture sono sempre più integrate. Ci sono evidentemente delle esigenze sociali che sono diventate tali per lo sviluppo della nostra società. In altre parti del mondo lo sono state con un risultato straordinario. dagli Stati Uniti, ma tutto il centro dell'Europa ha visto integrazione di culture per secoli. Noi siamo stati un po' lontani dopo essere stati al centro di migrazioni che hanno stravolto la struttura etnica del paese, soprattutto nella parte sud. Siamo oggi al centro di nuove immigrazioni che porteranno a un cambiamento della struttura sociale. Quello che si sta vedendo è che gradualmente tutto è più integrato. Poi gli eccessi rimangono, rimangono le differenze. La nostra ricchezza per il futuro è questa integrazione. Per questa parte del mondo, che appunto è stata la parte più ricca, la parte più protetta, è ancora la parte più ricca e più protetta del mondo. Siamo un nucleo di poco superiore al 5% della popolazione mondiale che vive in una condizione straordinaria di privilegio. L'ingresso di queste nuove culture può dare anche nuova linfa. Quindi, se la vediamo in un'ottica di incrocio di esperienze e di stimolo alla costruzione del futuro, credo che sia un'occasione straordinaria. Torno ai temi di attualità. In questo momento noi abbiamo la ricerca di un coraggio da parte degli imprenditori che forse è quasi un coraggio nel sopravvivere. Radio 24 su questo ha lanciato un'iniziativa che si chiama Disperati Mai, per dare voce agli imprenditori in maggiore difficoltà. Qual è la tigre che devono uccidere in questo momento i piccoli, soprattutto imprenditori che si sentono strangolati da un mondo in cui non si riconoscono più nemmeno come rappresentazione sociale? La malattia di fondo è la fiducia. Fiducia, mancanza di fiducia. Finché c'è una speranza, tutto si muove. Allora, se qualcuno ha vissuto la sua vita correndo nel mondo dell'imprenditoria, questo capita, se si trova un muro davanti e intorno tutto sembra cadere, i propri problemi si moltiplicano. Se abbiamo una malattia grave da cui dobbiamo uscire tutti, è proprio il buio della mancanza di fiducia. Abbiamo fatto nella nostra società un danno terribile, secondo me. Nel nostro muoverci in un certo modo, noi parlo di noi, buona parte dell'Europa, soprattutto il sud dell'Europa, che ha tolto fiducia e speranza. Se rinneschiamo questo meccanismo, non tutto, ma una parte della disperazione l'aiuteremo. Ad un segnale del Lord, tutti uscirono dal parco, preceduti da parecchi battitori, da due dozzine di cani grossi. Appena fuori, il drappello si divise. Sandokan, che montava un focoso animale, si cacciò in uno stretto sentiero spingendosi audacemente innanzi onde essere il primo a scovare la belva. Gli altri presero differenti direzioni e altri sentieri. In quell'istante uno squillo di trombe echeggiò in mezzo al bosco. Si sentiva nell'aria un forte odore di salvatico, odore particolare ai felini, che dura qualche tempo anche dopo il loro passaggio. Guardò sui rami degli alberi, dai quali la tigre poteva balzargli addosso, seguì con precauzione le rive di uno stagno la cui superficie era stata smossa. La belva è passata di qui, disse. Quasi nello stesso tempo echeggiarono due, tre colpi di fucile. La tigre è mia! Gridò Sandokan. Cacciò gli sproni nel ventre del cavallo e partì come un fulmine, con gli occhi sfavillanti d'ardire, il cris in pugno. 300 passi più oltre stavano i cacciatori. Dinanzi a loro, a piedi, si avanzava l'ufficialetto di marina, col fucile puntato verso un gruppo di alberi. Sandokan si gettò d'arcioni e pareva una seconda tigre. Spiccava salti di 16 piedi e ruggiva come una fiera. Principe! Gridò Marianna, che era discesa da cavallo. Sandokan non udiva nessuno in quel momento, continuava ad avanzarsi correndo. L'ufficiale di marina, che lo precedeva di 10 passi, udendolo avvicinarsi, puntò rapidamente il fucile e fece fuoco sulla tigre, che si teneva ai piedi di un grosso albero con pupille contratte, i potenti artigli aperti, pronta a slanciarsi. Il fumo non si era ancora dissipato che la si vide attraversare lo spazio con impeto irresistibile e rovesciare l'imprudente maldestro ufficiale. Stava per riprendere lo slancio, per gettarsi sui cacciatori, ma Sandokan era lì. Impugnato saldamente il Chris, si precipitò contro la belva e prima che questa, sorpresa da tanta audacia, pensasse a difendersi, la rovesciava al suolo, serrandole la gola con tale forza da soffocarle i ruggiti. Guardami, disse, anch'io sono una tigre. Poi, rapido come il pensiero, immerse la lama serpeggiante del suo Chris nel cuore della belva, la quale si distese come fulminata. Pagine per il futuro. Sandokan è giunto a Labuan, dove vive Marianna, la figlia del governatore inglese di cui si è innamorato. Per i primi tempi riesce a nascondere la sua vera identità, tanto da introdursi nella villa del governatore, ma un altro pretendente di Marianna lo smaschera. Un contrattempo che non lo distoglierà dal suo amore per la perla di Labuan, ma che per ora lo costringe alla fuga. «Dove andiamo, Sandokan?» gridò Yanez. «Imiteremo le scimmie», disse la tigre della Malesia. «Faremo perdere le nostre tracce agli inglesi che ci inseguono. Orsù, Yanez, forza di braccia!» Aggrappati ai Rotang, ai Calamus ed ai sarmenti dei Piper, i due pirati si misero a scalare la muraglia di verzura con un'agilità da fare invidia alle stesse scimmie. Salivano, scendevano, poi tornavano a risalire passando fra le maglie di quella immensa rete vegetale, scivolando fra le smisurate foglie dei foltissimi banani o dei tronchi colossali degli alberi. Alla loro inattesa comparsa, poi, fuggivano schiamazzando le splendide colombe coronate, i tucani dal becco enorme, dal corpo scintillante di piume rosse e azzurre, scappavano mandando delle note stridenti somiglianti al cigolare di un carro maleunto, si innalzavano come fulmini di argo dalle lunghe code macchiate e sparivano le belle alude dalle penne color turchese facendo udire dei lunghi fischi. Ad ogni istante Sandokan e Yanez davano il capo contro certe ragnatele così smisurate, così tenaci da poter imprigionare senza spezzarsi i piccoli volatili, numerose lucertole volanti, spaventate dalla comparsa di due pirati che volavano come delle scimmie, fuggivano disordinatamente in tutte le direzioni e qualche rettile, disturbato nel suo sonno, si allontanava precipitosamente facendo udire qualche sibilo minaccioso. Anche delle scimmie dal naso lungo, sorprese da quell'apparizione, si slanciavano precipitosamente verso gli alberi vicini, mandando grida di spavento e correndo poi a nascondersi nei cavi dei tronchi. Yanez e Sandokan, per nulla inquieti, percorsi 500-600 metri, non senza aver corso più volte il rischio di capitombolare da altezze che mettevano le vertigini, si arrestarono fra i rami di un Bua Mapalm. Il Bua Mapalm è una pianta che produce delle frutta piuttosto detestabili ai palati degli europei, essendo impregnate di un forte odore di resina, ma che pure sono assai nutritive e anche non sgradite agli indigeni. «Possiamo riposarci qualche ora», disse Sandokan. «Nessuno verrà a disturbarci in mezzo a questa foresta». C'è questo ruolo dei compagni di Sandokan. Fondamentale, cioè Sandokan non si muove quasi mai da solo, lui è comunque parte di un gruppo. Allora è chiaro che traslata in questa Europa, mi sembra che in questi ultimo anno e mezzo, per tutto insieme di motivi che sarebbe troppo lungo elencare, stiano risorgendo più che idee di amicizie, idee di utilità. L'umiliazione verso i greci, questa idea che esista un'Europa zavorra e un'Europa invece efficiente e produttiva. C'è un gruppo coeso, c'è ancora Tremannai, Sandokan e Yanez, oppure no? Perché ci sia un gruppo coeso, in generale, oltre alla leadership, ci vuole un'esperienza comune, un nemico comune. L'Europa è stata costruita su una solidarietà di chi aveva sofferto le divisioni dell'Europa e aveva visto la tragedia di due guerre mondiali e ha cercato dal primo giorno di fare qualcosa che evitasse per sempre una tragedia come quella. Dal documento di Ventotene, dal gruppo De Gasperi, Manet, Adenauer, tutti avevano un obiettivo comune. Da lì nasce la CECA, che è la Comunità del Carbone e d'Acciaio, perché il carbone e l'acciaio erano un motivo di guerra. A quel punto questo spirito comune è stato portato avanti. Quella generazione non esiste più. Gli epigoni sono in parte ancora sulla scena. Certamente Mario Monti rappresenta uno degli ultimi uomini delle istituzioni che vive l'Europa sulla sua pelle come figlio di una generazione che ha sofferto le tragedie della guerra e dà tutti quei valori che lo fanno diventare interlocutore privilegiato, perché i valori dell'unità lì ci sono. Gli altri vengono da esperienze più dirette legate alla loro regione del mondo, hanno meno vissuto l'Europa, venendo meno una figura come Cole, scompare la figura che sa quanto l'Europa ha contribuito alla riunificazione della Germania, e quindi non abbiamo una leadership cosciente di questo. Ognuno fa i conti con il proprio elettorato nei prossimi mesi. Questa è la cosa, secondo me, che oggi però sta arrivando a conclusione, spero, perché il nemico comune comincia a esserci. Il nemico comune è una tragedia sociale, il nemico comune è una terza guerra mondiale finanziaria che produrrebbe povertà e miserie come le altre due guerre, e credo che il nemico comune sarà alla fine l'elemento collante che permetterà, così come ha permesso ai greci di votare nella direzione più o meno giusta, permetterà all'Europa di fare delle scelte che saranno nell'interesse di tutti. Perché è così difficile in Italia trovare dei leader che allevino, coltivino, tengano con sé i Tremanaik e gli Yanez? Ma lei pensa che Sandokan sarebbe esistito se ci fosse stata la televisione, internet e i derivati? Cioè, questo è il problema, sta lì. Io non invidio il politico, è facile criticare il politico, ma oggi noi abbiamo una differenza di strumento fra il mondo reale, che viaggia alla velocità di internet, dei social media, e che ha i derivati che sono 9 volte il prodotto interno lordo mondiale, che si muovono sopra la testa, e il processo decisionale della politica. Quindi o noi riallineiamo i tempi dei processi decisionali ai tempi di internet, di intranet e dei derivati, o avremo un problema perenne, non ne usciremo mai. I paesi che se la cavano oggi, pro tempore, se la cavano perché hanno dei sistemi che si muovono più rapidamente. L'America, con tutti i suoi difetti, ha la common law, ha dei processi decisionali rapidi, ha le responsabilità del presidente che sono quelle e chiare, e malgrado tutto ciò i secondi quattro anni di Clinton sono stati molto meglio dei primi 4, dove alla fine per 2 anni è stato in campagna elettorale. Quindi bisogna vedere come riallineiamo quello che è la gestione e la responsabilità della politica alla realtà di oggi. E secondo lei c'è un interesse di soggetti sovranazionali, la finanza, il gruppo Bilderberg, nell'indebolire la politica, o tutto è molto più semplice e c'è stato un indebolimento di fatto nei processi più che nei progetti? Io credo che siamo pieni di piccoli speculatori e siamo poveri di grandi disegni. Questa è la mia sensazione, posso sbagliarmi. Io sono stato educato in economia con un sistema semplice, c'era M1, M2, c'era la massa monetaria stampata, la moneta stampata, se diventava troppa partiva l'inflazione. Questo era, e l'angoscia era Weimar e l'inflazione, o il Brasile al 1200. Oggi non esiste più la massa monetaria, esiste questa roba derivata che nessuno sa calcolare. Fino ad oggi fui il temuto pirata di Mompracem, fino ad oggi fui assassino, fui crudele, fui feroce, fui tremendo, fui tigre. Ma non lo sarò più. Frenerò gli impeti della mia natura selvaggia. Sacrificherò la mia potenza. Abbandonerò questo mare che un dì ero orgoglioso di chiamare mio, e la terribile banda che fece la mia triste celebrità. Andremo lontani. Lontani tanto da non udire mai più parlare delle nostre isole che ci hanno veduti crescere, vivere, amare, soffrire. Perderemo patria, amici, parenti. Ma che importa? Ti darò una nuova isola, più gaia, più ridente, dove io non udrò più il ruggito dei cannoni, dove non vedrò più la notte folleggiarmi intorno quel corteo di vittime da me immolate che mi urlano sempre: assassino! No, non vedrò più nulla di tutto ciò e potrò ripeterti da mani a sera quella divina parola che per me è tutto. Ti amo e io sono tuo sposo. La giovinetta s'abbandonò nelle braccia del pirata, Sandokan se la strinse al petto, le sue labbra baciavano la fronte nivea di lei, i suoi capelli dorati. Devo dire che a me sto Sandokan che si imborghesisce con le pantofole, faremo i figli, che lava i pannolini un po' mi sta sulle palle, però l'avete capito e non posso andare oltre, perché questo è un Sandokan che poi cambia, ma ha vissuto la sua vita sulla base di incubi, di rancore, di odio. Allora forse un appello a un paese in cui per 20 anni non abbiamo fatto altro che dividerci tra nord e sud, berlusconiani e anti-berlusconiani, dipendenti pubblici contro partita IVA. Beh, forse il momento di voltar pagina, non per un amore purtroppo, ma per una paura di altro genere, forse è anche venuto. Sì, ma anche per un amore, perché no? E anche amore per noi stessi, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Cioè lo spostare a tutti i livelli, il rapporto fra invidia, rabbia, odio, in un rapporto di solidarietà è un passaggio fondamentale, perché questo è il paese che è più solidale, più invidioso, cioè abbiamo tutti i sentimenti, poi il finale non piace a nessuno, a noi piace l'avventura e quindi quel finale speravamo fosse un po' più avventuroso. Ma nella vita quotidiana quello che davvero manca è la ricerca del progetto comune. Dobbiamo capire che c'è un nemico comune, dobbiamo capire che c'è un progetto comune, dobbiamo capire che abbiamo una fortuna unica, cioè questo è un paese straordinario. Se non facciamo leva su tutto questo, pagheremo un conto per molti anni. Le tigri di Monpracem, di Emilio Salgari. Intervista a Marco Tronchetti Provera, di Sebastiano Barisoni. Voci di Flavio Albanese e Lorenza Fantoni. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna domani alle 20:30 con due capolavori, Cuore e Lolita, commentati dall'attore e comico Paolo Rossi.